America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I say a few words about the bill that was passed last night to keep the government open and to make sure that our agencies are funded until the fall of next year. This, by definition, was a compromise bill. This is what's produced when you have the divided government that the American people voted for. Il presidente americano Barack Obama, lo avete sentito, ha firmato, trovato un'intesa con i repubblicani, fondamentalmente soprattutto con i repubblicani della Camera, per passare la legge che ha evitato il rischio di chiusura del governo americano. La chiusura del governo americano, come ricorderete, c'era stata in passato perché era prevalsa nel contesto repubblicano la linea dura dei tipartisti, dei militanti del Tea Party, che volevano ottenere concessioni dal presidente, non le hanno ottenute e hanno deciso di procedere nella linea dura, dicevo, e cioè nel bloccare gli stanziamenti che consentivano al governo americano di poter funzionare. Questo pericolo è stato sventato e perché ve ne parlo? Perché vorrei dedicare questa puntata di scenari, visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e all'anno nuovo, alla situazione politica americana. Barack Obama, a partire dalla fine di gennaio, si confronterà con un Congresso a maggioranza repubblicana sia alla Camera che al Senato. È una novità per lui, è una novità anche per i repubblicani, e secondo me questo primo compromesso che c'è stato dà un po', come dire, il là di quello che potrebbe essere il rapporto fra repubblicani e democratici, fra Barack Obama e John Boehner, presidente della Camera, e Mitch McConnell, che sarà il capo della maggioranza al Senato, negli ultimi due anni della sua amministrazione. Ho con me ai microfoni di America 24 Massimo Gaggi, corrispondente del Corriere della Sera e grande esperto di politica americana. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Allora Massimo, insomma, come vedi l'anno politico che si prospetta davanti a noi? Perché questo 2015 sarà intenso, cominceremo a vedere le grandi scaramucce per le presidenziali del 2016, abbiamo questi due candidati dinastici, Jeb Bush da una parte, Hillary Clinton dall'altra, candidati minori che cercheranno di darsi da fare. Ecco, come vedi questo 2015? Ma sarà un anno certamente di navigazione difficile per Obama, anche se appunto questo provvedimento di fine anno fa sperare che ci sia un po' di pragmatismo in più e che in un anno elettorale, che per definizione è quindi difficile e conflittuale, i repubblicani, proprio perché hanno ormai la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato, si pongono il problema di non essere più un muro che blocca tutti i provvedimenti, ma anche di collaborare al governo dell'America a far passare almeno alcuni provvedimenti efficaci su alcune questioni importanti, anche se sappiamo che fino adesso tutti i tentativi fatti su vari fronti, tipo appunto quello dell'immigrazione, sono falliti. Quindi può darsi qualcosa in più, vedremo dal punto di vista dei provvedimenti varati, però sicuramente con i radicali dei diparti che sono infuriati per quello che è successo in queste settimane e che sicuramente l'hanno rialzata la testa, sarà difficile anche per i repubblicani moderati collaborare in profondità con Obama e con i democratici per far funzionare un po' meglio l'amministrazione americana. Ecco, non dimentichiamo che, come si diceva, partiranno anche le corse per le nomination e dunque bisognerà capire fino a che punto ciascuno dei due partiti, nonostante tutte le manifestazioni di buona volontà, e ciascuno dei leader, sia quelli alla Camera e Senato che Barack Obama alla Casa Bianca, sia pronto a cedere su questioni che potrebbero andare ad influenzare la corsa elettorale. Ecco, parliamo di questa corsa, perché qui, come dire, tutti pensano allo scontro dinastico, Bush contro Clinton, Jeb Bush, il figlio minore rispetto a W, perché poi ce n'è uno ancora più piccolo, ma direi sarebbe il terzo Bush alla Casa Bianca se per caso dovesse vincere. Secondo te ha delle probabilità di farcele buone contro la Clinton? Perché poi dall'altra parte c'è, è vero, una Clinton, ma c'è anche una donna. Ma guarda, io credo che se riuscirà ad avere una nomination, Jeb Bush ha delle possibilità notevoli, perché credo che sia abbastanza apprezzato dagli individui indipendenti, dei centristi, e che quindi rispetto a una personalità che divide molto come Hillary Clinton, qualche chance in un testa a testa con lei potrebbe anche averlo. Ho qualche dubbio in più sul fatto che riesca a prevalere facilmente nelle primarie repubblicane, perché come tu sai bene, lui, Jeb Bush, ha moderato, ha posizioni su molte questioni, dalla scuola, tante all'immigrazione, tante altre questioni che piacciono poco all'establishment repubblicano e soprattutto ai radicali dei Tea Party. Quindi lui non farà sicuramente l'errore fatto a suo tempo da Mitt Romney di prendere delle posizioni finto radicali per vincere le primarie e poi riconvertirsi al centro durante le elezioni vere e proprie. L'errore non lo farà, però cercherà di continuare ad essere se stesso, ma proprio in questo bisognerà vedere quello che riuscirà a portare a casa nelle primarie, perché nelle primarie votano soprattutto gli elettori ideologicamente motivati, che sono quelli più radicali. Così, questo sicuramente è molto vero. È anche vero che proprio come dicevamo prima, con questo compromesso che si è raggiunto in Congresso per passare la legge di approvvigionamento per far funzionare il governo americano, di fatto si è messo da parte il Tea Party, è stato molto ridimensionato. Io credo che ci sia un grande sforzo del Partito Repubblicano per sostenere un impegno verso il centro. Certo, è vero, finisce per essere un appoggio istituzionale per Jeb Bush. Ci sono altri che scalpitano, senatore Marco Rubio, senatore della Florida, però Jeb Bush è stato governatore della Florida, quindi non credo che vada a mettersi contro un altro potenziale candidato che viene dallo stesso stato. E poi c'è il senatore Rand Paul del Kentucky, figlio d'arte anche lui, perché il padre partecipò alla corsa elettorale, un libertario, ha un seguito piuttosto forte nel Partito Repubblicano. Ma di nuovo non lo so, sarà molto interessante, credo, vedere poi come andranno a finire. Sicuramente sarà una battaglia dura nel contesto delle primarie. Ecco Massimo, passiamo invece a Hillary Clinton, la corsa in campo democratico, perché non è che ci siano molti nomi. Uno di questi è emerso recentemente, quello di Elizabeth Warren. Io personalmente non ci credo. Elizabeth Warren è troppo a sinistra per poter correre una campagna nazionale per vincere una nomination. Però tu che dici? Il paese sta cambiando? Forse potrebbe esserci una sensibilità a sinistra? Purtroppo io non riesco a rendere interessante la trasmissione contrastando le due tesi, perché la penso come te. Penso anch'io che la Warren sicuramente seduce una buona parte della sinistra e, avendo idee chiare e impostazioni molto coerenti, può piacere a tanta gente, però appunto a posizioni abbastanza radicali, e quindi al dunque credo che sarebbe un regalo ai repubblicani candidarla, perché porterebbe molti centristi, molti moderati a votare per il candidato repubblicano, soprattutto se sarà uno del tipo di Jeb Bush. Quindi mi pare molto difficile immaginare un'alternativa a Hillary Clinton. Ho tutti i dubbi che ci possono essere su di lei, sia per i motivi dinastici che dicevamo prima, questa idea un po' reale della politica americana fatta di famiglie regnanti, e anche forse per questioni di salute e di età. Ecco, Massimo, un'ultima cosa. Tu hai seguito molto la questione razziale, sei stato a Ferguson, è un elemento importante nel contesto politico americano, lo è stato sicuramente nel 2014. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito: come mai Barack Obama in questi anni non ha mai fatto una proposta molto concreta, molto seria, molto aggressiva per affrontare il problema razziale in America? Dico, una proposta di tipo socio-economico. Secondo te la farà? Come vedi l'America delle tensioni nel 2015? Che Obama avesse nel primo mandato l'impossibilità di fare il presidente che andava a rappresentare una etnia e una quota comunque minoritaria dell'elettorato americano. Nel secondo mandato poteva avere margini di intervento maggiori, ma in una situazione economica di crisi nella quale a pagare sono stati soprattutto, con la polarizzazione dei redditi, i poveri, e i neri ovviamente sono la parte più povera della popolazione, per lui i problemi si sono sicuramente acuiti. E poi non ci dimentichiamo che problemi di riforma americani più che sociali sono anche di sistema della giustizia e di meccanismi di funzionamento della polizia, e qui il problema, al di là anche delle razze, è proprio un problema che è quello appunto di un sistema molto duro, molto aspro con tutti, con un uso della forza molto determinato e molto frequente, e questo è molto difficile. È una questione che è connaturata nel modo in cui è nato il sistema americano, il paese, e quindi era molto difficile per uno come Obama, che in qualche modo è uno estraneo a quella cultura lì, intervenire in modo efficace. Ecco, nel 2015 tu vedi un'America meno debole, meno sotto attacco di quello che è stata nel 2014 o no? Se ti riferisci al terrorismo internazionale, no, penso che sarà, vista la crescita dell'instabilità internazionale, il problema dell'ISIS, la questione dei rapporti con la Russia, i vari scacchieri in cui l'America è impegnata in conflitti sempre più pericolosi e con scarsi sbocchi, non credo che vedremo meno tensioni, anche perché chi ha interesse a destabilizzare l'Occidente e gli Stati Uniti ovviamente lo farà con maggior vigore in un anno preelettorale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. D'appuntamento a domani. Goodbye and get going!